Matsu. Ehi, vabbè, allora. Allora, è arrivata l'estate, tutti al mare, così. Sicuramente. Mamma mia, che giornata che ho passato ieri. Oh, yeah. Perché? Io sono arrivato in Lita, proprio per un mese. A Castelsanto. Ora andiamo a montare tutto e cose. L'impianto. Cioè l'impianto praticamente si è spento il mixer, è andato in crescita. Un casino che non ti dico. Poi cavolo, vabbè, facciamo tutto con il mixer, non puoi aver fatto. Andiamo a montarlo, cazzo, e non funzionava digitale. Uia, un casino. Poi alla fine l'abbiamo fatto andare in analogico, siamo riusciti a farlo funzionare. Cazzo, veloce, passando i capi con tutta la gente lì nella piazza, aspettando il coso. Un casino. E noi correndo come matti a attaccare tutto, perché non partiva nulla. Con la pioggia? No, la pioggia per fortuna era finita. Un casino rimane. Di tutto e di più. Aspetta un attimo che mi sociamenti, Olu. No, mamma, sono entrato solo per trovare questa radio. Mamma, ciao, alla prossima. Su che arriviamo. Piano, uno per volta, parlate uno per volta.